Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di due libri di due economisti di stampo, di impronta liberale. Il primo è molto famoso, premio Nobel peraltro per l'economia, Friedrich von Hayek, è Nazionalismo monetario e stabilità internazionale. Il secondo libro è di un professore americano, Democrazia e ignoranza politica, di Ilya Somin. Ma di questo libro parleremo più tardi. Iniziamo con Hayek, iniziamo con Lorenzo Infantino. Buonasera Infantino. Buonasera, dottor Fabi. Lorenzo Infantino ha curato questo libro per l'editore Rubettino di Friedrich von Hayek, appunto un grande economista della scuola austriaca di economia, premio Nobel, Nazionalismo monetario e stabilità internazionale. Infantino è docente di metodologia delle scienze sociali alla LUISS di Roma. Ecco, perché è importante questo libro, che raccoglie alcune lezioni che Hayek ha fatto negli anni 30, quindi in tempi ormai superati? Lorenzo Infantino. Beh, queste lezioni che sono state dimenticate sono state tenute da Hayek nel 37 a Ginevra, dopo che due anni prima Lionel Robbins aveva tenuto anche lui delle lezioni contro il nazionalismo monetario. Sono importanti per varie ragioni, per vari ordini di ragioni. In primo luogo perché, con riferimento ai problemi di oggi, perché gettano luce sulle questioni oggi sul tappeto, ci fanno vedere come Hayek avesse a suo tempo previsto molti degli sviluppi che l'economia monetaria e le transazioni fra le varie nazioni hanno prodotto, e quindi ci suggeriscono forse soluzioni nuove, ci dicono che tutto ciò che è successo negli anni recenti non è successo senza un perché, o è successo senza che alcuni grandi pensatori lo avessero previsto. L'altra ragione è molto più debole, diciamo, riguarda un fatto molto specifico, e che negli anni 30 pensatori come Robbins e Hayek si sono battuti contro il nazionalismo monetario, e qui si sono trovati in buona compagnia perché hanno avuto come sostenitori, come divulgatori anche di queste stesse idee e delle idee di Robbins e di Hayek, hanno avuto Luigi Einaudi. Ecco, in questo senso emerge anche in queste pagine un contrasto che direi è alla base un po' di tutto il dibattito economico di questi decenni, e che è quello tra Keynes da una parte e Hayek dall'altra. Beh sì, il contrasto è sempre lo stesso, cioè fra chi ritiene che tutto, e in particolare la moneta, debba essere un prodotto dell'attività dello Stato, e chi ritiene invece che la moneta, essendo nata, perché qui c'è l'insegnamento di Menger, che è stato il fondatore della scuola austriaca di economia, che la moneta, essendo nata come un prodotto della libera cooperazione sociale, debba continuare ad essere uno strumento della libera cooperazione sociale. E quindi tutto questo ci porta a pensare o ci stimola a studiare un diverso sistema di organizzazione monetaria, cioè una questione istituzionale. Tutto ciò che avviene oggi dipende anche dal modo in cui le istituzioni monetarie sono state organizzate. Ecco, quindi in questo senso anche gli attuali problemi monetari che vediamo, le difficoltà del sistema monetario europeo, le difficoltà di integrare una moneta come quella cinese di un sistema economico profondamente diverso, sono realtà che vanno lette appunto anche alla luce di queste interpretazioni teoriche fatte dai grandi economisti. Ripeto, il libro di Hayek, che sono delle lezioni tenute nel 37, gettano una luce, una potente luce sui fatti di oggi, perché Hayek e Robbins, a differenza di Einaudi, sostenevano la necessità di un sistema competitivo che rendesse sempre possibile un equilibrio fra domanda e offerta di moneta, mentre il sistema che si è poi affermato, quello della riserva unica, quindi della banca centrale, è un sistema che determina una sistematica eccedenza dell'offerta di moneta sulla domanda di moneta. Qui si aprono anche questioni tecniche, come quella dei movimenti, certo, a breve termine dei capitali, che, come noi sappiamo, sono quelli che poi determinano le oscillazioni che quotidianamente noi vediamo sui mercati finanziari. E ci sono anche problemi poi legati non solo alle banche centrali, ma anche all'operatività delle banche commerciali, problemi appunto legati alle riserve che le banche devono avere, e sappiamo che le banche e la loro attività qualche volta un po' troppo esuberante sono state anche alla base delle crisi finanziarie degli ultimi anni. Quindi Sì, senz'altro, tutto questo è vero, ma dipende sempre dal tipo di sistema monetario che noi abbiamo, perché questi grandi autori, Robbins e Hayek in particolare, pensavano a un sistema competitivo in cui ogni banca fosse responsabile. Invece noi oggi abbiamo un sistema a riserva unica in cui c'è una banca centrale che promette di poter mantenere solvibili tutte le banche, e quindi c'è anche una forma di irresponsabilità da parte dei singoli istituti che si lanciano in operazioni che poi le espongono a situazioni inquietanti e che costringono poi l'istituto centrale a intervenire. Alla base di tutto c'è anche una diversa concezione del ruolo svolto dal saggio di interesse. Certo. Perché nella politica, nella concezione keynesiana, il tasso di interesse è un fenomeno politico, mentre nella concezione robbinsiana e hayekiana il tasso di interesse è un fenomeno monetario e che quindi dipende dalle preferenze temporali dei cittadini. E quindi doveva essere deciso dal mercato, un mercato che molto spesso viene appunto soffocato anche dall'attività, e in cui, se posso permettermi, viene lasciata troppa responsabilità alle banche centrali come elemento di ultima istanza nell'economia. Ma tutti elementi che si possono appunto vedere, verificare in questo libro, che dà appunto molti suggerimenti per leggere anche la realtà attuale. Ricordiamo allora il titolo: Nazionalismo monetario e stabilità internazionale. L'editore Rubettino. Sono 138 pagine per 10 euro. Ne abbiamo parlato con Lorenzo Infantino, che ha curato questo libro e ha curato l'introduzione. Dopo aver parlato del libro di Hayek, Nazionalismo monetario e stabilità internazionale, parliamo ora di un autore americano, di Ilya Somin, un professore alla George Mason University, che ha scritto il libro Democrazia e ignoranza politica, perché uno Stato più snello sbaglia di meno, è edito dall'Istituto Bruno Leoni, e ne parliamo con Filippo Cavazzoni. Buonasera Cavazzoni. Buonasera. Filippo Cavazzoni è direttore editoriale dell'Istituto Bruno Leoni, responsabile appunto dei libri dell'Istituto, e gli chiediamo subito perché avete deciso di tradurre questo libro che parla di democrazia e ignoranza politica, che ci azzecca con l'economia. Sì, in realtà la decisione è dovuta al fatto che è un tema sempre più d'attualità. Il libro è calato molto sul caso americano, sul caso statunitense, però è un fenomeno che si sta espandendo su scala diciamo globale nei paesi occidentali, quindi il problema delle conoscenze da parte degli elettori, ma anche da parte dei rappresentanti, è un tema di stretta attualità, e quindi questo è stato il motivo per cui l'abbiamo pubblicato. Ecco, lo stesso Somin nella sua presentazione appunto all'edizione italiana dice che gli Stati Uniti sono messi male a livello di conoscenza della realtà politica, ma gli italiani sono abbastanza vicini come ignoranza politica. Sì, diciamo che la percezione che si ha è questa. Il libro, nelle prime pagine, nel primo capitolo soprattutto, porta tanti dati empirici per sostenere la tesi da cui parte Ilya Somin, ovvero appunto che negli Stati Uniti la situazione ha preso una piega negativa, e quindi ci sono tanti dati empirici a supporto di questa sua tesi, e questi dati ovviamente confermano questo punto di partenza. Per l'Italia appunto non vengono proposti dei dati, ma la percezione è che anche da noi la situazione non sia poi così diversa. Ecco, questo si riflette ovviamente anche sulle classiche politiche, perché c'è un'ignoranza da parte della popolazione, ma c'è anche una sottovalutazione, una valutazione sbagliata dei problemi, e quindi anche dei modi per affrontare questi problemi da parte della classe politica. Sì, esatto. Uno dei problemi infatti che mette in evidenza l'autore, Ilya Somin, è che le competenze, le funzioni attribuite a livello centrale, a livello statale, sono andate via via crescendo, e queste comportano appunto un problema anche da parte del legislatore, perché deve avere delle competenze, delle conoscenze su un vasto raggio di questioni, e oggettivamente è difficile maturarle. In più c'è anche tutto il problema della farraginosità del processo legislativo, che si somma appunto al problema delle competenze. Ecco, quindi una delle soluzioni indubbiamente da una parte c'è quella di informare meglio la popolazione, ma bisognerebbe partire da informare meglio chi deve informare, qui il discorso sarebbe lungo sulla qualità dell'informazione, ma anche quella di ridurre le competenze dello Stato. Infatti uno dei sottotitoli, il sottotitolo del libro è "Perché uno Stato più snello sbaglia di meno", e questo in fondo è anche una delle logiche dell'Istituto Bruno Leoni, quello di portare uno Stato ad essere lo Stato che faccia il minimo indispensabile e che poi lascia la responsabilità dei cittadini di fare il resto. Sì, esatto. Quello che va a proporre Somin è proprio questo, cioè ridurre le competenze del settore pubblico, quindi snellire lo Stato, ma anche portare le decisioni il più vicino possibile ai cittadini. Quindi per Somin il modello ideale che può creare più incentivi anche per gli elettori a essere informati è quello di uno Stato sì più snello ma anche più decentrato. Ecco, a un certo punto Somin parla di voto con i piedi come possibilità, diciamo così, estrema di protesta verso lo Stato, in pratica di andarsene. Questo, anche questa può essere un'espressione di libertà in fondo. Filippo Cavazzoni. Sì, Somin dice che è più razionale, diciamo, che noi valutiamo meglio quando prendiamo delle decisioni che riguardano direttamente la nostra vita. Lui fa un esempio molto banale, quello dell'acquisto di una televisione. Lui dice che quando acquistiamo una televisione la nostra scelta è molto meditata, valutiamo i vari modelli, le caratteristiche, proprio perché questa scelta ha ricadute dirette sulla nostra vita. E quindi bisognerebbe far capire che anche le scelte pubbliche hanno ricadute dirette, bisognerebbe far percepire queste ricadute dirette sulla vita delle persone. E per Somin lo strumento migliore è quello appunto di creare una concorrenza fra giurisdizioni, quindi mettere il cittadino nella condizione che possa sapere nella giurisdizione di fianco qual è il livello di prelievo fiscale, qual è la normativa che disciplina determinati settori, in maniera tale che lui possa decidere se spostarsi con i piedi e quindi non votare nell'urna ma votare con i piedi per una giurisdizione diversa. Ecco, questa è certamente una possibilità che peraltro senza tanti clamori fanno anche molti, spostandosi da un paese all'altro, magari costretti da altri fattori che non quello di una scelta dettata unicamente dalla realtà politica. Comunque è un argomento sicuramente interessante da approfondire, questo della capacità di scelta, della capacità di poter scegliere sulla base appunto delle offerte politiche concrete, e questo libro di Somin va in questa direzione. Grazie a Filippo Cavazzoni, direttore editoriale dell'Istituto Bruno Leoni. Il libro di Somin, Democrazia e ignoranza politica, è appunto edito dall'Istituto Bruno Leoni, a 322 pagine per 22 euro. In questa puntata abbiamo parlato anche del libro di Friedrich von Hayek, Nazionalismo monetario e stabilità internazionale, edito da Rubettino. Grazie per quanti ci hanno ascoltato. L'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.